9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, perdono innanzitutto per la voce che oggi sentirete, sono un po' rauco, influenzato con la febbre. Io vi chiedo scusa perché questo darà sicuramente adito a qualche rumore improprio, non è per maleducazione ma è l'unica alternativa che ho per condurre. Buon giovedì 14 di ottobre, la puntata oggi la dedichiamo alle ragioni di chi, per così dire, programmaticamente in questa stagione di relazioni industriali in maniera crescente attraversate da tensioni, la pensa diversamente rispetto alla proprietà della nostra stazione radiofonica e del gruppo editoriale in cui si colloca, perché oggi dedichiamo l'intera puntata, tanto per sfatare l'accusa a questo influenzatissimo conduttore che non è attento e anzi non è rispettoso nei confronti delle ragioni della FIOM, esattamente alla manifestazione che è indetta per dopodomani mattina, sabato, da parte dell'organizzazione che anche all'interno della sua confederazione, la CGIL, che non ha firmato l'accordo interconfederale del 2009, quello che apre la nuova pagina delle relazioni industriali, dopo il quale sono stati firmati 25 nuovi contratti nazionali coerenti a quell'intesa, che è l'intesa che apre anche alle deroghe contrattate tra imprese e sindacati rispetto ai contratti nazionali stessi, deroghe che sono, così è prescritto nell'accordo interconfederale del 2009, giustificati o di fronte a crisi e quindi a necessità di prevedere delle deroghe, crisi occupazionali in stabilimenti, o per la necessità di attirare nuovi investimenti, cioè per ragioni di crescita. Come sapete, invece il contratto dei metalmeccanici, quello di cui si occupa la FIOM, appunto, non è stato quello dell'autunno del 2009, successivo all'intesa della periodo del 2009 interconfederale, non è stato sottoscritto dalla FIOM, e c'è una polemica molto forte intorno alla vicenda di Fabbrica Italia, il progetto di nuova produttività in cambio di salario nelle tasche dei lavoratori della Fiat, con 20 miliardi di euro annunciati di nuovi investimenti nel paese, e la FIOM è molto scettica che questi 20 miliardi davvero ci siano, perché dice noi non riusciamo mai a capire in una riunione con il dottor Marchionne questi 20 miliardi per quali modelli, dove, in quali stabilimenti verrebbero davvero messi, quindi la diffidenza e soprattutto la contrarietà, perché la FIOM dice noi non è vero che non siamo d'accordo sulla produttività aggiuntiva, noi però abbiamo le nostre idee e noi non vogliamo accettare quelle che ci sembrano unilateralmente dettate dall'azienda. Aggiungiamo a questo blocco di dissensi, ne abbiamo parlato tante volte, l'atmosfera che si sta diffondendo nel nostro paese nelle ultime settimane. Questo era un paese che nei mesi più duri della crisi, nei mesi in cui non si capiva ancora quanto gravemente sarebbe stato il colpo portato dal freno del commercio mondiale, siamo riusciti tutto sommato positivamente, mi pare, a evitare manifestazioni di tensione sociale molto forte che altrove invece avvenivano. Ricordate i sequestri dei dirigenti nelle fabbriche e così via. Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, è evidente sotto gli occhi di tutti invece che la tensione sta crescendo, e c'è chi è convinto che siano state le parole, i toni della FIOM ad essere la miccia di questo detonatore, perché da quando Raffaele Bonanni si è beccato il fumogeno alla festa del PD tiratogli da una figlia di un magistrato che poi ha commentato di un fumogeno non è mai morto nessuno, agli attacchi alle sedi sindacali della CISL, alle scritte che sono comparse anche contro Marchionne, contro Confindustria, fino ieri a l'ingresso di alcuni appartenenti a centri sociali in una sede della Confindustria, insomma è un crescendo di atti, episodi e di tensioni. Queste due cose, ma sentiamo direttamente da un rappresentante che spesso invitiamo per illustrarci le ragioni della FIOM, come la pensa la FIOM di tutti questi ordini di problemi. Ricordo anche che la scorsa settimana si è aperto il tavolo dell'agenda sociale per la crescita, in cui stanno solo le forze datoriali da una parte e tutte le confederazioni sindacali, CGIL ed Epifani compresa, per vedere di convergere su un'agenda di temi per la crescita. Non c'è il governo a quel tavolo, ma a conferma del fatto che poi i il confronto e la dialettica continua, non è che siamo in una guerra civile nei confronti della FIOM e nei confronti della CGIL. Allora, gli ospiti di oggi a cui chiediamo di chiarirci ulteriormente le idee e di confrontarsi con noi sono innanzitutto Giorgio Cremaschi, che è il presidente del comitato centrale della FIOM, e in questi giorni, io lo dico a tutti voi interessati, io sicuramente lo farò, comprate e leggete il suo libro che sta uscendo, che si chiama Il regime dei padroni. Radio 24, vedete che pubblicità fa. Buongiorno e grazie Cremaschi. Buongiorno e grazie della pubblicità. Allora, poi abbiamo Stefano Fassina, che è responsabile economico del PD. Buongiorno e grazie a Fassina. Buongiorno e grazie a lei. Perché deliberatamente vogliamo anche capire la Fassina che aderisce alla manifestazione di sabato prossimo, almeno così abbiamo letto in agenzia, come il partito, la segreteria Bersani eccetera eccetera si pone nei confronti dell'autonomia, ovvio, sindacale della CGIL e della FIOM, ma insomma quanto condivide, quanto pensa invece che politicamente bisogna fare ancora un ragionamento più ampio. E poi abbiamo Giorgio Santini, il segretario confederale della CISL. Buongiorno, grazie a Santini. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Cremaschi, ci spiega la manifestazione di sabato, contro chi e per chi e per cosa? Beh, dunque, la manifestazione di sabato è prima di tutto contro, lei l'ha detto con assoluta correttezza, le posizioni della Confindustria, della Fiat e della Federmeccanica che stanno imponendo quella che per noi è la distruzione del contratto nazionale. Questo è il primo punto, il punto diciamo sindacale puro che è alla base di questa manifestazione, cioè il fatto che noi pensiamo che oggi come oggi i lavoratori italiani non possano rinunciare al contratto nazionale, proprio perché siamo un paese fragile, proprio perché siamo un paese frastagliato, proprio perché siamo un paese tra l'altro con dei salari che sono tra i più bassi, come lei sa perfettamente, nei paesi OCSE, proprio perché siamo un paese che deve trovare una via di competizione che non è fondata, secondo noi, sulla concorrenza al ribasso sul costo del lavoro, ma deve per forza misurarsi, perché questo è lo spazio vero che noi possiamo avere con i paesi, con i salari e con i diritti più avanzati. E noi pensiamo che oggi la distruzione del contratto nazionale, la sua trasformazione in una cornice vuota dentro la quale ogni azienda fa quello che vuole, perché capisce anche lei, siamo in Italia, non siamo né in Germania né in Svezia, dire quando c'è crisi o quando faccio investimenti posso non applicare il contratto nazionale e dire lo faccio quando voglio. Quindi noi pensiamo che questa cosa qui oggi non si debba fare. Il contratto nazionale è uno strumento fondamentale di tutela dei lavoratori italiani, tutela naturalmente di più proprio i lavoratori delle aziende più in difficoltà, perché è chiaro che se un'azienda va bene, se un'azienda ha i soldi, se prima o poi i lavoratori di quell'azienda diciamo riescono a farcela per un po', ma la forza del contratto nazionale è di tenere assieme la baracca, cioè di tenere assieme i lavoratori delle aziende che vanno bene o che riescono a farcela con quelli che delle aziende che vanno male. Noi pensiamo che l'Italia oggi è già tanto sufficientemente frantumata e frastagliata da non avere bisogno di questo. La seconda ragione è proprio una ragione, come si dice, di regole e di democrazia sindacale, questo non c'è dubbio. Noi pensiamo che in ogni caso chi ha in mente una riforma di questa portata, cito la presidente della Confindustria, cioè che ha dichiarato, mi ricordo un anno e mezzo fa, in qualche modo in una sua intervista sul Corriere della Sera, in polemica mi pare con il governo in questo caso, che l'unica vera riforma costituzionale fatta in Italia è la riforma della contrattazione. Ora appunto si può essere d'accordo o in disaccordo, noi siamo in totale disaccordo con questa, che per noi non è una riforma ma una controriforma, però il punto è che non c'è stata nessuna consultazione democratica tra i lavoratori che permettesse di far decidere loro se questa consultazione è stata decisa e è accettata o no. Voglio ricordare che quando c'è stato l'accordo di Pomigliano noi ci siamo opposti a quell'accordo, noi abbiamo detto che era un accordo iniquo, poi se vuole vorrei anche andare un po' più nel dettaglio, perché spesso poi, ma questo richiede un attimo di tempo, diciamo un accordo ingiusto, perché imponeva condizioni di lavoro nell'auto che non è vero che ci sono in tutto il mondo, non ci sono da quasi nessuna parte del mondo, messe tutte assieme, perché qualcuno è vero che ha i 18 turni ma non ha quei tempi e quei ritmi, qualcuno ha quei tempi e ritmi ma non fa i 18 turni, parlo dell'Europa, qualcuno ha degli orari molto più bassi, penso alla Volkswagen, che fanno 35 ore settimanali e allora ha la flessibilità degli orari, cioè tra quando va male fa 28 ore alla settimana e quando fa bene fa 42. Lì c'è stato una sorta di libro dei sogni degli industriali, perché è stato imposto tutto, compresa la rinuncia ai trattamenti di malattia, al diritto di sciopero, eccetera. Bene, quando è stato fatto quell'accordo, ricordo che molti commentatori hanno detto sì, però è un caso eccezionale, va bene per quei lavoratori lì, Perroni un po' sfaticati, camorristi o cose di questo, assenteisti, insomma. Adesso io esagero un po', ma diciamo il tono era quello. Beh, e quindi non si capisce perché la FIOM non voglia fare quello, visto che è un'eccezione. Purtroppo avevamo ragione noi che non era un'eccezione, non solo perché in piazza, diciamo così, lo stesso segretario della CISL una settimana fa ha detto 1, 10, 100, 1000 Pomigliano, ma perché la Fiat ha chiesto subito dopo l'estensione a tutti i lavoratori del gruppo di quell'accordo, quindi anche quelli del nord, e il 29 settembre la Federmeccanica, la FIM e la UILM, cioè le organizzazioni di categoria di CISL, UILM e metalmeccanici, hanno firmato un accordo che appunto estende in bianco quell'accordo a tutti i lavoratori metalmeccanici, anche questo senza chiedere il parere dei lavoratori, perché voglio dire, la rinuncia a un diritto richiede, secondo me, che il titolare di quel diritto, che non è il sindacato ma il lavoratore, sia chiamato a decidere se è d'accordo o no. Però quindi, posso dire, l'interrompere, ecco, a proposito della conferma della volontà dei lavoratori, com'è che poi anche quando è avvenuto, no, a Pomigliano, l'unico caso in cui poi si è tenuta una consultazione, e c'è una consultazione che finisce 2 su 3, certo molto più degli iscritti alla FIOM, ma comunque a maggioranza vincono coloro che si riconoscono nella posizione del sindacato che tratta, perché lei dimentica sempre di dire che trattano questi sindacati alle condizioni nuove, perché voi dite no, non trattano, se le fanno imporre. Però quando succede che ci si conta una volta e la FIOM perde, comunque non va bene lo stesso, ho capito male io? No, io capisco l'obiezione, ma non è così, almeno noi non pensiamo così. Onestamente io penso che quel referendum sia un referendum che, voglio essere un po' brutale, se gli osservatori dell'ONU che sono andati in Iran e hanno detto che quelle elezioni erano insomma molto forzate e ecco, avessero visto come funzionava quel referendum, avrebbero detto no, scusate, non va bene, le elezioni in Iran sono un po' più corrette. Ma mica c'erano due, mica c'erano due, no, ma per capire a chi è a casa la mancanza di correttezza, mica c'erano due urne separate così si vedeva chi votava sì e chi votava no. No, guardi, le potremmo raccontare come funzionava quel referendum. Se i lavoratori erano in fabbrica pagati per non lavorare, venivano portati in fila a lavorare dai capi reparto, prima gli veniva fatto vedere un video nei reparti dove gli veniva spiegato per un'ora con un video dell'azienda perché dovevano votare sì, ciononostante il 42% degli operai hanno votato no. Noi non abbiamo accettato quel referendum. Ma allora come si fa? Mi faccia un attimo dire la motivazione, diciamo così, formale, oltre che quella sostanziale, che pure esiste, cioè che un referendum deve essere una cosa corretta in cui ci sono le due alternative sul campo e dove ci si può misurare liberamente con par condicio. Ma detto questo, in ogni caso, quei lavoratori lì hanno rinunciato a diritti che erano di tutti i lavoratori, quindi io penso che prima, questa è la correttezza, i tedeschi si dice tanto ma hanno fatto così, prima di decidere se il singolo lavoratore può rinunciare a un diritto di tutti, bisogna chiedere a tutti se sono disposti a mettere in gioco questa parte dei loro diritti, non so se è chiaro, si cambia la Costituzione e si fa il federalismo non con la decisione della regione Valle d'Aosta o con della regione Calabria, ma si fa con un voto del Parlamento italiano e se necessario con una consultazione dei cittadini italiani che decidono assieme quali sono le regole e compreso anche la possibilità di svincolarsi dalle regole, non la legge della giungla. In ogni caso, quei 5.000 lavoratori di Pomigliano che hanno votato in condizioni, secondo noi, di non democrazia, non hanno votato per il 1,5 milioni di metalmeccanici. Quindi facciamo il referendum sul 1,5 milioni di metalmeccanici. Se i metalmeccanici approvano quell'accordo tutti, a quel punto certo anche i lavoratori di Pomigliano hanno una legittimità a fare questa scelta, ma dopo, non prima. E credo che qualsiasi giurista, e ce lo danno, voglio dire, ce lo daranno anche in piazza, ci darebbe ragione. Le modifiche di regole che riguardano tutti, le decisioni tutti. Ma perché qui ci sono due concezioni diverse, e questo lei l'ha spiegato alla fine. C'è la concezione, diciamo, su cui è nato il sindacato, è nato e si è evoluto, quello per il quale alla fine perché si fanno i contratti nazionali e perché c'è la confederazione tra rappresentanze anche di diversi settori, perché l'idea di fondo è che il diritto collettivo consenta a chi è più debole nella collettività di poter contare sul sostegno, la coesione, eccetera, eccetera, di chi è in condizioni meno svantaggiate di fronte al lavoratore, di fronte all'impresa e all'imprenditore. E quindi la concezione da cui discende questa, che nella storia del sindacato è comunque l'atto di nascita, per così dire, è quello che prima di decidere di modificare azienda per azienda o stabilimento per stabilimento, esigenza per esigenza, tra rappresentanze sindacali e impresa, bisogna rivolgersi alla fonte della legittimità, che è quella collettiva. E questa è la posizione appena spiegata da Gramsci. C'è chi dice, obietta, invece dice, la storia è andata avanti. Qua la verità vera è che le curve di costo sono diverse a livello territoriale, azienda e azienda è messa diversamente a seconda di quali siano i suoi margini, di chi sono i suoi competitor nel mercato che è mondiale, e quindi invece di andare a chiedere prima tutto il 1,5 milioni di metalmeccanici, noi diamo fiducia che i sindacati nelle aziende, nei territori e azienda per azienda e addirittura stabilimento per stabilimento vedano seduti con l'impresa cosa si può fare, innanzitutto A, per difendere il posto di lavoro che c'è, B, se possibile, per vincere la competizione internazionale, C, per tentare di assumere anche nuova gente invece che chiudere, tipo Chrysler, come è. A Chrysler hanno accettato, lo ricordo tutti, invece che 28-32 ore, $32 l'ora, che era la paga dei dipendenti Chrysler minacciati di chiusura, quelli storici, hanno accettato di andare sotto la media dei invece dipendenti auto negli Stati Uniti, dei gruppi giapponesi, cioè Mitsubishi e Honda, che rispetto a quelle paghe storiche del sindacato americano sono $18-19 dollari l'ora. Quindi hanno accettato per di essere pagati molto meno, cosa che in Italia nessuno propone. Detto questo, toccheremo poi il punto nella seconda parte della trasmissione dell'atmosfera di violenza, perché questo bisogna su questo pronunciare parole chiare. Santini, su questa impostazione, il suo è il sindacato che insieme alla UIL ha messo più la faccia, i suoi leader, e ci sta mettendo adesso anche le sedi, si sta esponendo. Tentiamo di dare delle risposte pacate, ma serie, a questa argomentazione della FIOM. Sì, guardi, partendo proprio dal primo punto, cioè dice Cremaschi che la FIOM va in piazza per impedire la cancellazione del contratto nazionale. La storia per la FIOM è esattamente un'altra, nel senso che proprio la riforma della contrattazione che abbiamo fatto nel 2009 ha permesso che dopo stagioni in cui i contratti nazionali si rinnovavano in maniera molto stanca, molto lunga, in maniera molto sfilacciata, invece in questa stagione i contratti nazionali, tutti i contratti nazionali del settore privato in particolare, sono stati rinnovati in maniera diciamo molto lineare, in maniera anche soddisfacente per le parti, tant'è che salvo il caso dei metalmeccanici, in tutti gli altri contratti sono stati firmati anche dalle federazioni della CGIL. Quindi la prima motivazione è completamente infondata, proprio con la forza dei fatti, con la forza di quello che è successo, e a maggior ragione in un periodo di crisi pesante anche dell'economia e della produzione, rinnovare i contratti, garantire la tutela del potere d'acquisto dal punto di vista almeno dell'inflazione ai lavoratori, credo che non sia, soprattutto per quanto riguarda appunto i lavoratori delle piccole aziende, delle aziende più in difficoltà che non hanno altre possibilità, tant'è che abbiamo anche inventato, prendendolo proprio dai metalmeccanici, un elemento perequativo per chi non può fare la contrattazione aziendale, quindi in chiave solidaristica per le piccole aziende. Quindi prima argomentazione non è proprio fondata, lo dicono i fatti, non lo dicono le opinioni. La seconda questione, quella secondo cui le deroghe contrattuali sarebbero, diciamo così, il cavallo di Troia attraverso cui si smantellerebbe il contratto, è altrettanto infondata. Perché? Perché noi le abbiamo costruite, tra l'altro mutuandole da un insegnamento del professor Giugni, che mi pare sia al di sopra di ogni sospetto per quanto riguarda un rapporto con il movimento sindacale e il diritto del lavoro. Le abbiamo mutuate anche da altre realtà europee e sono esattamente la modalità attraverso il quale, per seguire gli adattamenti, i cambiamenti, le esigenze anche forti di competizione che attraversano il mondo economico in maniera del tutto evidente, e per evitare quindi che vengano smantellati tutti gli elementi anche di tutela sociale, i diritti dei lavoratori, le retribuzioni eccetera, bisogna che ci siano delle elasticità. Queste elasticità possono essere di due tipi: o selvagge, per cui ognuno fa quello che vuole, oppure contrattate, regolate. Noi abbiamo affidato proprio al contratto nazionale, quindi una sede diciamo più alta e anche più di garanzia collettiva, la possibilità in casi ben specifici, appunto nuovi investimenti o situazioni di emergenza, di regolare questa elasticità, queste deroghe, come si dicono, queste modificazioni, ovviamente in maniera delimitata, in maniera anche temporanea, in modo tale che questo avvenga permettendo alle aziende di adattarsi alle necessità che vengono avanti da un lato, senza pregiudicare però, anzi, per salvaguardare occupazione e tutele sociali. Quindi altro fatto. D'altra parte, questo in Italia per primo fu fatto nel 2006 nel contratto dei chimici e fu fatto unitariamente da tutte e tre le confederazioni sindacali, quindi a dimostrazione che non è un disegno perverso di qualche servo del padrone, tra virgolette, come viene scritto nei muri, ma sostanzialmente è un filone di ragionamento, un filone di azione sindacale praticato in Europa, il caso Volkswagen è clamoroso, è praticato anche in Italia e giustamente mutuato, reso organico nella riforma della contrattazione. Questo fatto ha permesso di realizzare a Pomigliano anche quell'accordo in cui ci sono non la violazione di alcuni diritti costituzionali come si dice, ma ci sono alcune modificazioni o deroghe contrattuali molto delimitate e molto specifiche su materie contrattuali non costituzionali, voglio sottolinearlo, che stanno dentro appunto questo adattamento a fronte di un nuovo investimento molto corposo che porta a Pomigliano una nuova produzione, avvia nuove linee e permette, ricordiamocelo sempre, di rimettere al lavoro 5.300 persone. Questi sono i fatti, quindi io mi limito a dire che è proprio un'altra storia, cioè la realtà dei fatti è completamente diversa dalla ricostruzione, dalle motivazioni che da questa ricostruzione trae la FIOM, che naturalmente è liberissima di trarre queste sue motivazioni, però io sottolineo che in materia di fatto le cose stanno diversamente. Bene, allora, come da queste due realtà effettuali diverse si giunga poi a un'atmosfera che forse è meglio evitare per tutti, questo nella seconda parte dopo la pubblicità, in cui ricominciamo però con Stefano Fassina e come il PD si pone di fronte a la FIOM, a questa interpretazione così, avete sentito, radicalmente diversa dei presupposti di come si fanno le relazioni industriali. Se sceglie quindi chi dice qui c'è un attacco generalizzato, che le forze dell'impresa, Cremaschi ha detto questo è il sogno degli industriali, hanno ripreso il coltello dalla parte del manico, dice Cremaschi, dicono Landini e dice la FIOM. Se il PD condivide questa visione, che è radicale ma è coerente, è netta, oppure se invece, per così dire, capisce, comprende, ma una visione un po' più ampia. Pubblicità. Allora, eccoci tornati in studio, dove il Torvo Giannino sta in realtà facendo una trasmissione che molti degli ascoltatori dicono: ma ti sei bruciato il cervello, ma cos'è questo comizio del compagno Cremaschi? Ragazzi, siccome la tensione sociale nel paese c'è, la mia idea è che invece di continuare a registrare giorno dopo giorno uova lanciate, fumogeni lanciati, le accuse che iniziano a diventare servi dei padroni a Bonanni, Angeletti e a chi ha spiegato come Santini che semplicemente c'è una divisione di fondo, però alla fine i contratti si firmano, se ne sono firmati 24, l'unico che non si è firmato è quello della FIOM. Secondo me è bene ragionare e io decido deliberatamente di abbassare il tono, stare nel merito invece che scomunicare e dire che non la penso come Cremaschi, del resto non è una novità, ma io preferisco ragionare. Allora, adesso noi abbiamo Stefano Fassina perché leggo da Repubblica di oggi, quindi non ho scelto il giornale Libero, quotidiani che sono orientati programmaticamente al no nei confronti delle posizioni della FIOM, del centrosinistra e del PD. Oggi c'è un articolo, lo trovate a pagina 13, il titolo è "La FIOM porta in piazza l'opposizione", a proposito della manifestazione di sabato di cui stiamo parlando, e Roberto Mania, che è il collega di Repubblica che lo scrive, dice: "La FIOM, indebolita sul piano sindacale dagli accordi separati e dalla disdetta della Federmeccanica, passa alla testa di un movimento d'opposizione, un magma con tanti rivoli, filo conduttore la difesa delle regole democratiche, e però a questa manifestazione aderisce chi?", scrive Roberto Mania, "dal PD con tanti distinguo e nessuna adesione formale, Pierluigi Bersani comunque non ci sarà, aderiranno poi invece i centri sociali, la sinistra radicale, Poste, il neocomunista, il popolo viola, i movimenti contro la privatizzazione dell'acqua, gli intellettuali vicini al Micromega e tanti intellettuali come Camilleri, Carlo Rizzani, Margherita Hack, Gino Strada, il fondatore di Emergersi". E poi più avanti, e per questo arrivo alla domanda a Stefano Fassino, Repubblica e Roberto Mania scrivono: "Così sulla piazza di sabato per tutti sarà difficile metterci il cappello. Non quello del Partito Democratico, ad esempio, dove un'incauta dichiarazione, leggo testualmente, al Sole 24 Ore del responsabile economico Stefano Fassino, virgolette, aveva dichiarato Stefano Fassina, saremo presenti alla manifestazione della FIOM CGIL, ha scatenato la rivolta degli ex popolari, da Enrico Letta a Giuseppe Fioroni, fino alla precisazione ufficiale, nessuna adesione formale del PD alla manifestazione". Abbiamo Fassina e gli chiediamo. Ci spiega innanzitutto non tanto la sua dichiarazione, la correzione, non ci interessa tanto questo, ci interessa il PD rispetto a questa interpretazione della FIOM alla testa di una vera e propria impulso politico al centro-sinistro. Se è vero e non è vero, e dal suo punto di vista che ne pensa, che ne pensa la segreteria, e di fronte a questa visione radicale di questo attacco ai diritti dettato da Confindustria e dalla Fiat, se il PD pensa che sia una visione comprensibile ma tutto sommato un po' radicale, oppure invece la condivide. Spassina, ci dica. Allora, la ringrazio per questa trasmissione, perché credo che l'approccio che lei tenta di portare avanti sia l'approccio giusto. Serve ragionare, non serve scambiarsi insulti, non ci sono servi dei padroni, non ci sono terroristi, credo ci siano movimenti sindacali che interpretano in modo diverso una fase molto difficile, e noi dobbiamo aiutare noi stessi, il Paese, ad uscire da questa fase difficile attraverso una discussione seria e di merito. Ma innanzitutto volevo dire che noi, il Partito Democratico, almeno da quando è nato, non aderisce mai alle manifestazioni fatte da altre. In alcuni casi decidiamo di partecipare, quindi la precisazione che ha fatto ieri l'ufficio stampa del Partito Democratico serviva a ribadire a chi tentava di strumentalizzare le mie parole, le parole di altri che parteciperanno, altri dirigenti del Partito Democratico che parteciperanno alla manifestazione, che il PD mai aderisce. Sabato scorso siamo stati presenti, abbiamo sostenuto la piattaforma di CISL e UIL sul fisco, ma non abbiamo aderito, come non abbiamo mai aderito ad altre manifestazioni. Noi, questo è il punto di fondo per rispondere alla sua domanda, cerchiamo di stare in relazione ai movimenti, in relazione alle mobilitazioni, con una nostra lettura autonoma e con le nostre proposte. Un'adesione vorrebbe dire condividere pienamente delle piattaforme, questo sarebbe sbagliato, ripeto, non lo facciamo in questa circostanza, non l'abbiamo fatto in altre circostanze. Il punto di fondo della nostra lettura è che in questo Paese c'è effettivamente un attacco forte ai diritti del lavoro, ma non viene da Confindustria, viene da questo governo, in particolare dal ministro Sacconi. In questi giorni c'è la Camera, la settima lettura il collegato lavoro, che io ricordo è un provvedimento omnibus che tra le altre cose prevede una limitazione fortissima dei diritti dei lavoratori, ad esempio a ricorrere al giudice in caso di si sentono violati i loro diritti, perché introduce un arbitrato di equità che è un unicum in Europa. Un provvedimento che ricordo è l'unico provvedimento che il presidente Napolitano ha rinviato alle Camere, quindi noi siamo di fronte effettivamente a un attacco ai diritti dei lavoratori portato dal governo, un attacco che, guardate, mette in difficoltà le stesse aziende, perché si sono dovute autoconvocare Confindustria e le organizzazioni sindacali per evitare un tavolo a Palazzo Chigi che rischiava di, per diciamo, comportamento e l'offensiva ideologica del ministro Sacconi, di non portare nessun passo avanti rispetto a un patto sociale di cui questo paese ha drammaticamente bisogno. Quindi noi saremo, alcuni di noi, alcuni dirigenti del Partito Democratico saranno sabato alla manifestazione, perché in quella manifestazione ci saranno decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di lavoratori che stanno vivendo condizioni difficilissime, perché poi diciamo, le polemiche ci fanno perdere di vista le questioni di fondo. In questo paese dall'inizio della crisi abbiamo quasi 1 milione di disoccupati in più, 500.000 di lavoratori e lavoratrici sono in cassa integrazione o cassa integrazione in deroga che sta scadendo, e per il 2011 le prospettive purtroppo non sono particolarmente positive. Ci sono 250.000 giovani che hanno perso contratti di lavoro precari e non hanno nemmeno un'indennità di disoccupazione, quindi c'è un disagio sociale, una difficoltà sociale di milioni di famiglie. Ieri la Caritas ricordava i dati sulle famiglie in condizioni. Correggeva l'Istat ieri la Caritas, sì. Ma diciamo, più che correggeva, utilizzava un altro criterio, un'altra, certo, soglia di povertà, certo, rispetto a quella scelta dall'Istat, una metodologia diversa, discutibile, ma in ogni caso 500.000 in più o 500.000 in meno a seconda di dove si mette la soglia, è evidente comunque che c'è una grandissima difficoltà sociale. E non che il punto politico fondamentale è che, almeno dal nostro punto di vista, poi può essere sbagliato, però noi diciamo che il governo sin dall'inizio ha sottovalutato e minimizzato la crisi, ha scelto una via necessaria di rigore, ma non l'ha accompagnata con misure a sostegno della crescita. Ok, aspetti perché la devo fermare, perché adesso altrimenti diventa a più ampio spettro. Legittimamente il PD, è lei che è responsabile economico, poi se la piglia col governo, però dobbiamo rimanere sul tema della FIOM, la manifestazione, la CGIL, il centro-sinistra. Mi pare, in sintesi, comprensione, ma una visione politica più ampia, tant'è vero la questione non è Confindustria, ma è il giro politico del fumo, insomma, poi il governo, il ministro Sacconi. La mia controopinione è che, cercare di dare una risposta trattando dal basso e anche con meccanismi meno rigidi del mercato del lavoro, mi rendo conto che questa questione dell'arbitrato dice: se tu vuoi un posto di lavoro sei più debole, piuttosto che essere disoccupato mi sceglierai l'arbitrato e la rinuncia a un diritto. Questa è, come sempre, una questione che riguarda la valutazione della libertà individuale. C'è chi pensa che l'individuo sia coartato di fronte al suo malessere sociale se non ha un posto di lavoro, e allora quindi bisogna battersi, anche se lui non lo farà e vorrebbe firmare pur di avere un posto di lavoro, dicendo sì, voglio l'arbitrato pur di lavorare, e bisogna battersi in suo nome anche se lui in realtà individualmente direbbe: ma io non ho bisogno di questa roba qua, datemi il posto di lavoro. E c'è chi invece pensa che l'individuo, per diritto naturale, come la penso io, è totalmente titolare della sua sfera di libertà, e quindi a quel punto, se mi date la valutazione individuale e non solo collettiva per contratto di poter scegliere, se a me va di scegliere pur di lavorare, se voglio lavorare, di avere un arbitrato e quindi di rinunciare individualmente ma liberamente alla tutela attraverso la via dell'impugnativa giudiziale, io lo farò, e anzi sono coerente con la mia impostazione. Come vedete, c'è sempre la filosofia dietro gli scontri e le visioni del mondo, e allora però bisogna parlarne con filosofia. Dopo le informazioni sulla circolazione stradale ricominciamo con Cremaschi sulle parole chiare su quello che sta avvenendo di fronte alle sedi della CISL, di fronte ai capi della CISL, ai sindacati della CISL, e anche da ieri nelle sedi di Confindustria. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare a che qualcuno si faccia davvero male, oltre che usare parole sbagliate, o c'è qualche cosa che la FIOM per prima e la CGIL può fare, come gli chiedono di fare da Confindustria, dalla CISL, dalla UIL, che cosa si può fare per evitare una spirale di degenerazione di un confronto su posizioni molto diverse? A tra poco, intanto, le strade. Allora, eccoci tornati in studio. La domanda a Cremaschi l'avevo fatta e a lui la risposta. Cosa si può fare? Qual è l'impegno della FIOM, dei suoi dirigenti, dei suoi iscritti per evitare che di qui a tra poco la degenerazione a un punto limite non travalichi in qualcosa che è meglio non tocchi? Beh, noi abbiamo detto con chiarezza che deve essere una manifestazione, e sono sicuro che lo sarà, democratica, pacifica, giocosa. Detto questo, però, un secondo sulla sua filosofia. Io penso che la filosofia non è sempre cose astratte. È chiaro che qui si scontra, e lei l'ha detto con assoluta chiarezza, lo condivido, un principio di fondo. Noi pensiamo, il sindacato è nato per questo. Il sindacato è nato in fondo come un monopolio per impedire che i lavoratori si facciano concorrenza a ribasso tra di loro, cioè per dire: io posso dammi il lavoro a me invece che a quell'altro, perché io ti offro più lavoro e meno salario. La dico in soldoni, ma per capire. Noi questo e vogliamo impedirlo, e pensiamo che in un momento di crisi, guardi, le dico, fossimo in un momento di grande espansione, uno mi potrebbe anche dire, vabbè, ma c'è ricchezza per tutti, la competizione, in un momento di crisi come questa, rischiamo di mettere in discussione salute, sicurezza, condizioni di vita, povertà, cioè rischiamo di fare non competizione con la Germania, ma con la Serbia o con paesi ancora più arretrati. E mi fermo qui perché non voglio, come si dice, saltare la seconda parte della sua domanda, non esatto. Voglio che qualcuno pensi che faccio il furbo, quindi voglio dire, sono in campo questioni per noi etiche, fondamentali, bisogna riconoscerci questo, cioè per noi sono questioni di valore, di principio costituenti, cioè è in gioco per noi l'essenza stessa di quello che per noi, voglio dire, vuol dire essere un sindacato che rappresenta gli interessi dei lavoratori. Detto questo, è chiaro che ci sono cose che non vanno. Apprezzo la cosa che ha detto questa mattina sul Corriere della Sera, perché bisogna sempre dare giuste dimensioni alle cose, anche alle cose che non vanno. Ha detto azioni dimostrative che non devono, le messe così, sbagliate, l'ha detto Bonanni, apprezzo, cioè un uovo non è una bomba, anche perché se mettiamo tutto assieme ci può essere qualcuno che pensi che una bomba e un uovo sono la stessa cosa, quindi bisogna fermarla questa cosa, e sono assolutamente d'accordo, noi lo diremo, le sedi, ognuno ha le sue, se le tiene, eccetera, però è chiaro che una risposta va data. Qui non si può fare una sospensione di democrazia. Allora io dico due proposte molto semplici. Uno, perché l'unico modo che si è trovato negli ultimi 2000 anni per risolvere le controversie è la democrazia, e come diceva Churchill, è un sistema assolutamente imperfetto, ma è il migliore che c'è oggi, non ce ne sono altre. Quindi uno, la CISL e la UIL tra i metalmeccanici sono così convinte di aver ragione, sono così convinte, come ha detto Bonanni, di essere la maggioranza, sottopongano a un referendum vero, fatto in termini di par condicio, con regole controllate e decise da tutti, l'accordo che hanno firmato il 29 settembre, che estende a tutti i lavoratori metalmeccanici sostanzialmente l'accordo di Pomigliano. Poi vorrei anche dire che quell'accordo è persino peggio di quello di Pomigliano, perché sostanzialmente quell'accordo dice che, tolto i minimi tabellari, che sono proprio quella che si chiama la tariffa sindacale, gli scatti di anzianità e appunto l'istituto perequativo, che peraltro è stato introdotto nell'unico contratto unitario fatto nei metalmeccanici recentemente, tolte quelle cose, tutto il resto, condizioni di lavoro, qualifiche, salario aziendale, perché ricordo che la Fiat quest'anno ha cancellato il premio ferie di produttività di 1200 euro al mese, quindi il salario Fiat quest'anno è calato anche formalmente, non solo perché c'è la cassa integrazione. Quindi voglio dire, tutto il resto, orari, ferie, condizioni di malattia, tutto testo è derogabile. Allora, i metalmeccanici sono d'accordo a un accordo così? Ci si fa votare, e se i metalmeccanici dicono di sì, la FIOM lo accetterà. Va per forza, va perché questa è la stessa cosa, mi permetta, sì, noi abbiamo avuto anche molte adesioni dei lavoratori pubblici e dei lavoratori della scuola. C'è una gran confusione e una gran tensione nella scuola, però nella scuola c'è un voto addirittura anche più rappresentativo, che è stato cancellato dal governo. si facciano le elezioni delle, si dovevano fare adesso le elezioni delle rappresentanze sindacali nella scuola e nel pubblico impiego, e queste elezioni sono state annullate, non si vota più nella scuola per eleggere i rappresentanti dei lavoratori. Cremaschi, si ripristino le elezioni, cioè va bene. Allora, la posizione della FIOM è: facciamo prima un'enorme consultazione di tutti i metalmeccanici, possibilmente la facciamo di tutti i lavoratori, se capisco bene, preventivamente. Io ho un po' l'impressione che la crisi, il mondo vada avanti con un altro passo, ma come sempre in coerenza dico: se questa è la posizione della FIOM, sentiamo la risposta. Io non sono d'accordo su niente, però vabbè. Allora Santini, è una provocazione, è una strada perseguibile quella della consultazione tra tutti i metalmeccanici? Allora, mi faccia dire intanto che mi sarei aspettato parole più nette nei confronti della violenza, ma questo capisco che Cremaschi, visto che frequenta con molta assiduità anche i centri sociali e dintorni, evidentemente fa un po' fatica. Mi dispiace, prendo atto che continua però questo linguaggio, vede, anche alla fine adesso quando si parla del voto, dell'RSU, della scuola, eccetera, non è vero che è stato cancellato, lì c'è un problema che è cambiata una normativa e forse, non si sa ancora, queste elezioni verranno rinviate, ma non si cancella nulla, cioè dobbiamo stare attenti ai linguaggi, perché i linguaggi poi generano anche l'impressione che siamo in Cile di Pinochet, infatti. E questo purtroppo è il punto da cui partire, cioè anche la vicenda del contratto sulle deroghe dei metalmeccanici, non è vero nulla che si cancellano dei diritti, si fa, come dicevamo prima, a fronte di casi ben precisi che saranno regolati dalle stesse parti che fanno il contratto, quindi se la FIOM firmasse il contratto potrebbe far parte correttamente anche lei di questa regolazione collettiva di questi aspetti. A fronte di investimenti o di emergenze si potranno fare delle modificazioni, delle deroghe limitate e temporanee ad alcuni istituti contrattuali, punto. Va detta così, perché allora forse la gente che ha giustamente, come ricordava Fassina, tanti problemi veri, perde il lavoro, non ha il reddito, ha perso un contratto a termine, non trova l'occupazione per sé, per i propri figli, eccetera eccetera, questi sono i problemi veri, allora la gente che ha tanti problemi veri non avrà la testa piena anche di tante altre falsità. Dopodiché sulla democrazia sindacale, allora, i contratti di lavoro li firmano le organizzazioni sindacali, le quali hanno delle loro regole democratiche e rappresentative. Chi sta lì a quel tavolo della segreteria nazionale rappresenta un consiglio direttivo di tanti consigli direttivi che sono i rappresentanti dei lavoratori, degli iscritti alla FIM, alla FIOM e alla UILM. Noi abbiamo delle regole al nostro interno che, se siamo tutti d'accordo, si decide tutti d'accordo, se no decidono gli organismi delle confederazioni sindacali, che sono democratici e rappresentativi, non è che sono un'altra cosa. Dopodiché è sul tavolo, come sa benissimo Cremaschi, speriamo che Epifani e domani la Camusso la prendano, una proposta dal 2008 di darci delle nuove regole, anche diciamo più avanzate, di misurazione della rappresentanza, di verifica della rappresentanza effettiva. E voi siete favorevoli? Esatto, allora, poi se noi applichiamo quelle regole si saprà perfettamente chi rappresenta, chi e chi ha legittimità di decidere. Basta anche fare un incontro e fare una firma. Anche a me sembra che la verifica delle rappresentanze e un'intesa su questo sia una via d'uscita possibile. Avete sentito comunque che oggi ho proposto un metodo, quello di ascoltare e non di insultare. Torno a dirvi, sta uscendo il libro di Giorgio Cremaschi, Il regime dei padroni, ma dalla radio di Confindustria che cosa pretendete di più? Poi la mia opinione è che la libertà individuale e i mercati del lavoro flessibili, con sindacati capaci di interpretare questa flessibilità, di contrattare, non sono per l'abolizione del sindacato, servono a fare più produttività e insieme a mettere più reddito disponibile nelle tasche dei lavoratori. Io questo ci si dimentica sempre di dirlo, che con quegli accordi arrivano 4.800 euro lordi in più per i dipendenti della Fiat, altrimenti si chiude. Questa è l'alternativa. So che Cremaschi e la FIOM non sono d'accordo, però mi pare che grazie a Cremaschi, grazie a Santini e grazie a Fassina abbiamo dato almeno un esempio di civiltà. Grazie in regia Filippo Aureggi, grazie in redazione Alessandro Marco Tulli e come assistente Franco Piantini. Da linea generale radio, appuntamento a domani.